La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Bacon è rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 30 maggio 2009, benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. E poiché è la quarta settimana del mese, come classicamente facciamo, questo è il podcast sull'anno internazionale dell'astronomia, il podcast relativo alle iniziative sul 400° anniversario delle prime osservazioni di Galileo. E quest'oggi parleremo fondamentalmente di due cose: una rassegna cinematografica intitolata Discovery, un film, e una mostra intitolata Back to the Moon. E di questo ne parleremo col dottor Franco Finotti, direttore del Museo Civico di Rovereto. Buongiorno, dottor Finotti. Buongiorno. Dottor Finotti, all'inizio della trasmissione, all'inizio di Caccia al Fotone, abbiamo le classiche, solite 100 parole iniziali per introdurre la trasmissione. E allora, visto che quest'oggi parleremo di una mostra, ma anche di una rassegna cinematografica che si sta svolgendo in questo momento presso il Museo Civico di Rovereto, per lei che cos'è l'anno internazionale dell'astronomia? Guardi, per noi questa è una grande occasione, perché siamo un museo di scienze naturali e quindi è una grande occasione per insegnare ad osservare non solo il cielo, ma anche quello che succede sulla Terra, nello spirito di Galileo, che ci ha confermato che la natura è un grande libro scritto secondo un linguaggio matematico. Quindi il nostro augurio è proprio di imparare ad osservare e di misurare. Quindi l'occasione è anche per dire che i musei di scienze sono i luoghi del dato, degli oggetti, ma anche il luogo delle idee, del pensato. Quindi l'altro componente forte è proprio questa qua. L'anno internazionale dell'astronomia è l'occasione per noi per ricordare questo aspetto. Il museo è il luogo dove c'è un connubio tra il dato, cioè tra l'informazione, tra l'oggetto e le idee. Dottor Finotti, prendendo il Deplian disponibile sul sito del Museo Civico di Rovereto, troviamo un bel astronauta con la sua tuta spaziale e una bella scritta. La scritta fa Back to the Moon. Ma che cosa vuol dire Back to the Moon? Quindi che senso ha ritornare sulla Luna nel 2009? Ci chiediamo perché bisogna ritornare alla Luna. Nella nostra città c'è una bellissima mostra al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea, il MART, che si chiama Cold War, Guerra Fredda, l'occasione di vedere e rivivere il clima degli anni 60, e in collaborazione con noi abbiamo detto: non guardiamo solo al passato, guardiamo anche se ha un senso tornare sulla Luna, e tornare sulla Luna secondo noi ha un significato, ha un'importanza, soprattutto per fare scienza, ma soprattutto per conoscere meglio il nostro pianeta. Abbiamo detto prima fondamentalmente che questa iniziativa è divisa in due grosse parti, una prima parte in cui c'è una rassegna cinematografica e una seconda parte in cui invece c'è una mostra di astronomia con cose innovative che poi sentiremo. Quindi dividiamo un po' la trasmissione in due grossi blocchi, cominciamo a parlare prima della rassegna cinematografica. Con che criteri sono stati scelti questi film? Cioè in che modo avete scelto dei film in luogo di altri? Ma Discovery on Film è la parte, diciamo, scientifica, tecnologica di una rassegna internazionale del cinema archeologico che noi facciamo da 20 anni e che poi esportiamo in tutta Italia e anche fuori dall'Italia. Quindi Discovery è l'occasione di riflettere sulla tutela del bene culturale, sull'osservazione, sulla natura, su come l'uomo venga ispirato dalla natura, per cui una serie di film che noi proponiamo sono film ispirati, potremmo dire, alla natura, cioè l'uomo si ispira agli animali per effettuare qualcosa. Ecco allora per esempio dei film della Bayonne molto belli sulla difesa oppure sull'attacco di questi animali. Quante cose si imparano osservando quindi la natura. Un altro settore è quello della ricostruzione 3D, delle visioni 3D e le ricostruzioni di beni culturali, ma anche di animali e di reperti, in questo caso reperti fossili, che non possiamo più godere nella loro interezza, perché vediamo solo una parte, cioè ciò che si è fossilizzato. Quindi una parte di questi film raccontano come erano, come vivevano, raccontano i risultati di queste ricerche paleontologiche attraverso la ricostruzione grafica 3D di questi animali. Senta, mi potrebbe fare un elenco dei film che sono stati e che saranno in programmazione presso questa rassegna cinematografica? Guardi, noi abbiamo Cronaca dello spazio sulla Luna, anzi mi preme ricordare che tutti i film che noi diamo durante la rassegna sono film che noi conserviamo nella nostra cineteca e sono film che gli appassionati possono rivedere su richiesta, anche per cui uno si perde qualcosa, può vedere alcune cose direttamente venendo nel nostro museo, richiedendolo prima, oppure in altri casi è possibile vedere su sperimentaria.tv, una web tv che il nostro museo mette a disposizione delle scuole principalmente, ma anche di tutti gli utenti internet. Allora dicevo, ci sono per esempio la cronaca dello sbarco sulla Luna, quel famoso luglio del 69, quando tutti, almeno quelli che hanno una certa età, io avevo 16 anni in quell'occasione, ricordo ancora con emozione lo sbarco e la cronaca dello sbarco sulla Luna. Poi una serie molto interessante di 12 puntate dalla Terra alla Luna con Tom Hanks, che aveva proprio ripreso tutto questo aspetto proprio della missione Apollo, quindi tutta la parte della missione Apollo. Poi tutta una serie di filmati della nostra Agenzia Spaziale Italiana che ci racconta anche domani sera, per esempio, un bel film di Giorgio Pacifici che ci racconta proprio anche l'impresa italiana nello spazio, quindi una serie di filmati da questo punto di vista. Un'altra serie molto interessante è la serie Prehistoric Park, no? È una serie che viene data e ci è stata concessa dalla 7 e che noi mostriamo anche in anteprima assieme alla 7. Ed è una serie che racconta questi animali preistorici e la loro ricostruzione 3D. Il film della serie Il futuro nella natura, come dicevo prima, dell'attacco, alcuni film sulla conquista della Luna, sono film che raccontano anche questo, le missioni Apollo, alcuni film per esempio sul volo, Il sogno di Icaro, 50 anni di esplorazione nello spazio, come dicevo, 3 secoli di astronomia all'osservatorio di Torino, La tecnologia della natura, insomma sono tutti titoli che prendono lo spunto dell'osservare e del conoscere non solo il nostro universo ma anche la nostra Terra, il nostro pianeta. Senta, dottor Finotti, visto che stiamo parlando di cinema, di luna e di spazio, come pensa che la cinematografia possa aiutare a ricordare alcune emozioni che sono state vissute nel 1969 durante il primo sbarco della Luna, perché stranamente dal 1969 fino ad ora sembra che la Luna sia stata dimenticata. Ci sono state addirittura 17 missioni Apollo, tra cui 6 che sono atterrate e che hanno studiato la Luna, eppure in qualche modo sembra che la Luna sia stata dimenticata da allora. E allora come pensa che questo possa far ricordare alcune emozioni perse e alcune emozioni che in teoria andrebbero ricordate, visto che sono forse il passo più importante nella storia dell'umanità? Ma adesso sta riprendendo e io dico che nel passato la corsa alla Luna aveva anche un motivo politico, un motivo di prestigio, un motivo militare proprio, di confronto tra due blocchi, il blocco orientale e il blocco occidentale, tra gli Stati Uniti e il mondo russo. C'era il momento della guerra fredda. Finito quel periodo, che è stato un periodo straordinario, pensate, sono state 400.000 persone inserite in questo progetto di ricerca, mi pare 24 miliardi di dollari all'ora per queste missioni spaziali. Ogni anno venivano lanciati dai 2 a 3 missioni dell'Apollo, pensate, l'ultima nel 72, Apollo 16 e Apollo 17, 2 razzi, Saturno 5, che è un razzo largo 10 metri, alto 110 metri, quindi un grattacielo. Quindi pensate lo sforzo economico è straordinario da questo punto di vista. Adesso si è capito, non c'è più pari investimento, ma si è capito che bisogna risalvare la stessa pulsione di allora, cioè lo stesso desiderio scientifico di rilancio, e dall'altra parte capire che per studiare bene il nostro pianeta bisogna anche studiarlo dallo spazio, non solo i satelliti, ma pensate, dalla Luna praticamente la nostra Terra è come un gioiello bianco-blu che si vede, grande come un pollice, ed è possibile quindi fare delle misure straordinarie per capire meglio il funzionamento del nostro pianeta e poi confrontare anche questi dati con gli altri dati spaziali che noi abbiamo. Molti paesi, compreso l'Italia, hanno capito l'importanza, ma ricordo anche paesi come la Cina, come l'India, come il Giappone, sono dei soggetti che stanno indagando moltissimo la nostra Luna e, ripeto, dalla Luna stanno indagando la Terra. Dottor Finotti, eccoci rientrati in studio e quindi passiamo al secondo blocco, passiamo quindi a parlare di questa mostra, la mostra intitolata Back to the Moon, che si ripropone di rifar vivere queste esplorazioni, le esplorazioni lunari dalla 11 alla 17 che poi hanno toccato la Luna con particolari mezzi. So peraltro che nell'ultima parte delle esplorazioni lunari la Luna è stata esplorata con una macchinina e quella macchinina l'avete riprodotta all'interno di questa mostra, quindi cominciamo a parlare veramente della mostra. mostra come è strutturata e soprattutto parliamo del Lunar Rover, questa macchinina con quattro ruote che ha permesso agli astronauti delle ultime missioni Apollo di visitare la Luna e quindi di far percorrere agli astronauti un po' di chilometri come se la Luna fosse un'autostrada. L'occasione di ritorno alla Luna di questa mostra è anche l'occasione di parlare della nostra attività. Noi, come le dicevo, siamo un museo di scienze naturali dove però abbiamo una grande attenzione alla robotica. Perché la robotica? Perché la robotica non è solo meccanica, informatica, elettronica, è anche pensare, è anche osservare, è uno straordinario opportunità interdisciplinare per affrontare l'osservazione e la separazione di ciò che si vede in problemi semplici, cioè chiedere praticamente se è possibile per una macchina avere dei comportamenti intelligenti o comunque chiedere ad una macchina di fare osservazioni, di prelevare campioni, di effettuare delle attività nella sensoristica, è un straordinario esercizio anche per dei naturalisti. E allora noi abbiamo pensato che per pubblicizzare anche la nostra attività nel campo della robotica, quale esempio migliore poteva essere quello, assieme ad un'azienda, la Marangoni Meccanica, un'azienda del nostro territorio, un'azienda leader nella meccanica nel nostro territorio, abbiamo ricostruito il Lunar Rover, che era un veicolo lunare usato dall'Apollo 15, dall'Apollo 16, dall'Apollo 17, per poter fare chilometri sulla Luna. Questo veicolo, nelle tre missioni che le citavo, ha fatto circa 90 chilometri, quindi i due astronauti, sfruttando il fatto che sulla Luna c'è un sesto della gravità e quindi questo veicolo invece che tre quintali o poco meno pesava una quarantina di chili, era possibile quindi spostarlo anche a mano, veniva tolto dall'impianto del LEM, era ripiegato e poteva quindi muoversi sulla Luna. Noi abbiamo fatto una copia fedele dai progetti NASA, abbiamo fatto il modello digitale, l'abbiamo ricreato perfettamente funzionante. Chi viene in mostra lo vede e vede proprio che questo mezzo si sposta. Abbiamo una persona che il sabato, adesso durante il Discovery, tutti i giorni lo guida e poi saranno nei momenti dello spettacolo, delle visite guidate, che mostrerà il funzionamento e è possibile proprio salirci e vedere come si muove. È uno strumento che, assieme al campione lunare che noi abbiamo, assieme al ragionamento sulle rocce della Luna e sulle rocce che arrivano da altri mondi e sulle ricerche che le attuali sonde hanno fatto sulla Luna e sulla Terra, affronta il problema che le dicevo prima. Dobbiamo tornare sulla Luna, quindi back to the Moon, perché sulla Luna si può fare scienza e si può conoscere meglio il nostro pianeta. Dottor Finotti, di certo il Lunar Rover in qualche modo richiama al passato della Luna, quindi all'esplorazione Apollo, a quello che è stato la Luna proprio alla fine degli anni 60. Però sappiamo che la Luna è nei progetti futuri dell'Agenzia Spaziale Europea, dell'Agenzia Spaziale Americana, e quindi in qualche modo sarà utilizzato come avamposto per le future esplorazioni spaziali, soprattutto per arrivare verso Marte. Quindi questa mostra, oltre a far rivivere il passato, oltre a far rivivere le missioni Apollo, richiama alla mente in qualche modo il futuro delle esplorazioni lunari, quindi il futuro di quello che sarà la Luna per le future esplorazioni spaziali? Sì, c'è una caratteristica che spesso nelle nostre esposizioni noi facciamo, ed è questa. Cioè, l'uomo non è solo l'uomo di scienza oppure l'uomo di lettere, noi stiamo lavorando per far passare un concetto importante, e cioè l'unità della cultura e soprattutto la centralità anche del pensiero scientifico, e quindi far vedere come non c'è solo la poesia, la letteratura disegnata per esempio, ma c'è l'uomo che è sia attento ai momenti dell'arte, della poesia, del disegno, ma è anche attento all'osservazione, al fenomeno di scienza, a rappresentare attraverso la matematica e la fisica le bellezze della natura. E allora in molte mostre che noi facciamo cerchiamo di rappresentare l'uomo che si approccia a questi problemi, e anche in questo caso noi ci avviciniamo alla Luna attraverso un testimonial di eccezione. In questo caso è un fumetto Questo caso è Nathan Never, un investigatore della linea dell'editore Bonelli, che gentilmente ha concesso con una storia, quindi chi ha il nostro programma vede il programma nelle prime 8 pagine, nelle altre 8 pagine legge una storia di fantascienza che si intitola Ritorno alla Luna, dove Nathan Never torna sulla Luna in una storia che non vi anticipo, ma chiedetecela, venite a vederla anche in mostra o anche sul nostro programma. E praticamente la fantascienza è quello che ci accompagna, la letteratura di fantascienza, o come ci piace dire, la letteratura disegnata con i fumetti della fantascienza che raccontano la scienza. Molto spesso il limite tra scienza e fantascienza è un limite sfumato. Nella nostra mostra trovate anche 5 stimoli su 5 grandi racconti di Jules Verne che parlano di esplorazione, esplorazione al centro della Terra, esplorazione sulla Luna, esplorazione nel fondo dei mari, esplorazione dei meteoriti che possono cascare. E lì si vede come Jules Verne ha visto anche e ha descritto nella fantascienza qualcosa che poi è diventato scienza, quindi è proprio un limite molto sfumato, e quindi noi ci piace raccontare anche questo aspetto, l'aspetto, diciamo, della letteratura, l'aspetto del sentimento dell'uomo verso il bello, verso la poesia. Pensi quanto la Luna ha influenzato un poeta come Leopardi, per esempio, no? Che vedeva la quotidianità della nostra vita nell'atteggiamento della Luna, vedeva il mistero e l'infinito anche nell'ambito della Luna, ma come questa abbia anche poi influenzato osservazioni come quelle di Galileo, dove ha cercato di rappresentare i mari e i monti lunari, ha cercato di capire quanto questi erano alti, ha cercato di fare dei conti. Ecco, tutti e due questi aspetti sono aspetti del nostro essere uomo, e noi come museo, che siamo un museo di scienze e di storia naturale, vogliamo testimoniarli. Beh, diciamo che è curioso che proprio quest'anno ci siano 2 compleanni, il compleanno dei 400 anni dalle prime osservazioni di Galileo e i 40 anni dalle prime esplorazioni umane sulla Luna, quindi quel 16 luglio 1969 quando l'Apollo 11 atterrò col suo LEM sulla superficie lunare. Ma dalle sue parole stiamo capendo che il percorso che avete strutturato è un percorso multidisciplinare. Abbiamo il fumetto con Nathan Never, abbiamo la robotica con il Lunar Rover e abbiamo anche la rassegna cinematografica. E quindi come mai avete scelto questi approcci in luogo di altri? In particolar modo, chi ha scelto di fare cosa e in che modo? Guardi, innanzitutto questa iniziativa è all'interno di una manifestazione che si chiama Discovery on Film, dove noi, soprattutto con le scuole, lavoriamo moltissimo, perché Discovery è anche un momento in cui le scuole di tutta Italia e in questa settimana le scuole del nostro Trentino Alto Adige mostrano la loro attività nella robotica. C'è una parte di stand in cui, se lei viene, vede i lavori straordinari fatti con dei piccoli robot dalle nostre scuole. E allora chi ha selezionato, chi ha scelto? Innanzitutto la nostra sezione didattica, che opera su questo con il nostro responsabile, il professor Nello Fava. Dall'altra parte noi abbiamo una sezione che abbiamo attivato 20 anni fa, e in maniera anche, credo che siamo uno dei pochi musei che hanno una sezione di questo tipo, che è la sezione di archeologia e scienze naturali in immagini. Cioè noi abbiamo ribadito che le immagini e la documentazione visiva è importante nei beni culturali. Quindi, come c'è una sezione di mineralogia, abbiamo anche una sezione di archeologia e scienze naturali in immagini, con 2 conservatori che si occupano di questo, che da 20 anni raccolgono film. La nostra cineteca è ricca di oltre 3.000 film che vengono tradotti dai nostri operatori, doppiati da un'equipe molto brava che fa e rende disponibili questi film, che magari sono stranieri, come quelli che vi dicevo prima, della Beyond, della BBC, della Nova, della Gedeon, quindi delle grandi case di produzione con le quali noi abbiamo contatto. E allora questi nostri conservatori selezionano, con l'aiuto di queste case di produzione, gli ultimi film che parlano degli argomenti che noi abbiamo voluto. E poi c'è l'impianto della nostra sezione, diciamo, di geologia, di mineralogia, che ha voluto parlare appunto del campione lunare e dell'esplorazione, per cui la mostra è anche una occasione di fare rete anche con gli altri quattro musei che sono presenti nella nostra città di Rovereto: il Museo d'Arte Moderna, il Museo della Guerra, la Campana dei Caduti, secondo uno slogan che noi abbiamo: vieni a Rovereto per fare arte, storia e scienza, per fare memoria e per conoscere le scienze naturali. Quindi anche questo, il tema che noi abbiamo inserito, è un tema che si sposa molto bene con questa riflessione fatta dal MART, dal Victoria and Albert Museum, che ha portato una bella mostra su questa guerra fredda, dove si vede il clima, il design, il clima di quei tempi, diciamo le interviste anche alle persone di quei tempi, e noi, da noi si vede il campione di luna, il lavoro delle sonde, il Lunar Rover, che strumenti hanno fatto i russi e anche quali sono le prospettive, cioè perché bisogna ritornarci sulla Luna. Dottor Finotti, l'ultima domanda prima del pezzo musicale. Lei come si è appassionato alle materie scientifiche, in particolar modo visto che stiamo facendo il podcast sull'anno internazionale dell'astronomia, in che modo si è appassionato al cielo? Si è appassionato al cielo guardando le stelle, quindi la meraviglia del cielo stellato, oppure grazie, non lo so, al numero affascinante della costante di Hubble? Guardi, io ho studiato e mi sono laureato in geologia all'Università di Padova. E devo dire che da quando ero un ragazzo, glielo accennavo prima, avevo 16 anni quando c'è stato lo sbarco della Luna, ho provato una grandissima emozione in quel caso. E tuttora noi come museo abbiamo un osservatorio astronomico sul Monte Thunia, abbiamo un planetario. Riteniamo, e io ritengo importante, che nella formazione dei nostri giovani, come è stata nella mia formazione, il pensiero scientifico sia importante e dominante. E io ho avuto degli insegnanti, ho avuto una preparazione scolastica che mi ha creato entusiasmo nel fare le cose, e ho potuto fare attività di ricerca sia da giovane astrofilo. Poi mi sono appassionato al problema della nostra Terra, del nostro pianeta, e quindi io ho fatto tutta una serie di studi sulle scienze geologiche, quindi sullo studio dai minerali in granuli alla geofisica, alla ricostruzione paleoambientale del nostro, del raccontare la storia del nostro pianeta e del nostro territorio. E guardi che questa storia è scritta nella roccia stessa, è scritta nel territorio, e quindi ho imparato come la ricerca scientifica in questo caso sia un grande fascino, un grande motore per creare entusiasmo e per portare avanti. Vedo con un po' di preoccupazione adesso il fatto che sempre più i nostri giovani non si iscrivono nelle facoltà scientifiche, hanno la percezione che devono fare tanta fatica per diventare fisico, matematico, geologi oppure biologi, e poi non siano gratificati. Ecco, probabilmente bisogna che noi come museo cerchiamo di impegnarci in questo settore, ridiamo ancora entusiasmo, mostriamo come fare scienza è bello, è piacevole, no? E soprattutto è una parte centrale della nostra formazione di uomini, e il pensiero scientifico deve essere uno degli elementi cardini della nostra crescita anche culturale e indispensabile. Dottor Finotti, andiamo con un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio per gli ultimi stralci di trasmissione. C'est vrai, c'est toi qui m'a tout appris. Je te dois tout, l'envie aussi. Tu m'as fait découvrir la vie. Je te revaudrais ça, c'est promis, mais dis-moi ce qui t'anime, tes convictions les plus intimes. Il y a des choses que je ne comprends pas. Explique-moi les raisons, le pourquoi. Pas. Tu ne me disais jamais pourquoi tes yeux devenaient parfois si noirs. Dottor Finotti, siamo in fase finale di trasmissione, quindi negli ultimi stralci, nella parte conclusiva di Caccia al Fotone, di questo podcast sull'anno internazionale dell'astronomia. E quindi, ovviamente, visto che abbiamo parlato della rassegna cinematografica Discovery on Film e di Back to the Moon, che questa mostra sul ritorno alla Luna, ovviamente le devo chiedere dove si tengono queste due manifestazioni e come fare per arrivare, per partecipare, per gli utenti che stanno ascoltando questo podcast. Noi abbiamo messo uno slogan: se volete la Luna dovete venire a Rovereto. Rovereto è una città del Trentino del Sud, a pochi chilometri da Verona, sono una sessantina di chilometri da Verona, è ben servita con l'autostrada 22 e con la ferrovia del Brennero. In città di Rovereto troverete quattro musei che accolgono il visitatore con delle forme di biglietto unico, di forme anche di promozione, come in questo caso è possibile andare al MART o venire al nostro museo civico che è in Largo Santa Caterina. Si può visitare magari i giovedì dal 15 di giugno fino al 15 di ottobre il nostro osservatorio astronomico sul Monte Zugna. Tutti quelli che vogliono la Luna possono venire a Rovereto fino al 30 di luglio. Sarà possibile vedere la nostra mostra e seguire le nostre attività. Dottor Finotti, la ringrazio per la disponibilità, la ringrazio per aver partecipato al podcast sull'anno internazionale dell'astronomia. Intanto io vi saluto, saluto gli ascoltatori di Caccia al Fotone, saluto gli ascoltatori di Radio Città Fucico che stanno ascoltando questa trasmissione e, come al solito, vi auguro una buona scienza a tutti. A sabato prossimo!